Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi parliamo di sport. Ma i campioni di cui ci occupiamo non sono necessariamente degli sportivi. Il loro incrocio di esistenze si gioca sullo sfondo di porte, palloni, scarpe tacchettate e ha a che fare con i valori che ci riguardano tutti e che sono alla base della nostra vita sociale. Un aforisma attribuito ora a Oscar Wilde, ora a un giornalista e giocatore di rugby americano, Henry Blaha, recita: «Il rugby è un gioco bestiale giocato da gentiluomini. Il calcio è uno sport da gentiluomini giocato da bestie». Si potrà essere più o meno d'accordo con la seconda affermazione, ma la prima è senz'altro vera. Il rugby è uno sport affascinante, basato proprio sul contrasto tra il contatto fisico duro, pesante, da una parte, e il rispetto, la lealtà, la forza di gruppo e della volontà dall'altra. In Inghilterra c'è una cittadina di nome Rugby nel Warwickshire, a nord di Londra. Qui tra il 1816 e il 1825, nel liceo pubblico, si gioca regolarmente a calcio. Sono diverse le versioni di questo sport che circolano a quel tempo, spesso con regole riscritte dagli stessi studenti. Uno di questi, William Webb Ellis, decide un giorno di applicare una nuova regola sul campo. Prende la palla con le mani, percorre tutto il campo di gioco in lunghezza e deposita la palla oltre la linea di fondo, tuffandosi all'interno della porta avversaria. È gol. È meta. Come tutti gli sport, anche il rugby vanta un'origine a metà tra realtà e leggenda. Quel giovane, William Webb Ellis, è passato alla storia. A ricordarlo, un monumento nel paese di rugby e il campionato del mondo a lui dedicato, istituito nel 1985. Un campionato che riunisce tutte le più grandi squadre del mondo in incontri appassionanti, dove forza, velocità, potenza si fondono con strategia, tecnica e soprattutto spirito di squadra. Uno sport che, al contrario di tutti gli altri, ha un primo e secondo tempo in campo e un terzo tempo fuori dallo stadio, per fare amicizia. Come spiega il campione italiano Mauro Bergamasco. Beh, il terzo tempo fa parte della cultura del rugby, il terzo tempo fa parte dei valori del rugby, fa parte dei modi di vivere del rugby. Il terzo tempo è la condivisione, la compartecipazione dei giocatori che hanno partecipato alla battaglia a qualcosa di più allegro, qualcosa di conviviale, nel quale si discute sia della partita che della vita normalissima. È la parte più visivamente gioiosa del rugby. Comunque si usa andare a bere qualcosa, insomma, con l'avversario, ormai con il collega, per simpatizzare. Il rugby è uno sport, ma anche una scuola di vita. Insegna dei valori che provengono dalla disciplina e dalle regole. Vediamone alcune tra le più importanti. Ce le spiega un appassionato particolare, Claudio Bisio. Vabbè, prima di tutto la palla è ovale. Perché? Perché sì, perché al mare ci sono le zanzare, perché al casello c'è la coda, perché ci piacerebbe fosse rotonda, invece ovale. Bisogna tenerla così, con due mani, e passarla al compagno come un regalo da porgergli. Vai! E passare indietro. Perché? Che altre domande fate? Perché sì, perché è una regola che va rispettata, perché per dare un vantaggio all'avversario. Già, dare un vantaggio all'avversario. Non è certamente un atteggiamento proprio di tutti gli sport. Qui non conta solo vincere, ma come vincere è altrettanto importante. L'avversario non è nel rugby un semplice ostacolo da superare, è un elemento del dialogo e del gioco, bisogna rispettarlo e poi batterlo. La palla quindi non può essere passata in avanti, ma lateralmente o all'indietro. Questo impone alla squadra di avanzare compatta insieme verso la meta, insieme o non se ne fa nulla. Quando un giocatore viene placcato, e cioè gettato a terra e immobilizzato, deve immediatamente passare la palla al compagno. Per questo bisogna essere vicini. Nelle mischie è la forza complessiva che conta, non quella individuale. Insomma, il rugby non è uno sport di individualità. Da soli si perde, sempre. Per vincere bisogna stare insieme. È una metafora della vita e del vivere sociale. Lo sport del rugby in Sudafrica è vivo da più di 120 anni. Già all'inizio del XX secolo, la nazionale di rugby sudafricana, soprannominata gli Springboks, le Antilopi, era considerata una potenza, al pari della Nuova Zelanda, patria degli All Blacks, una leggenda. Una rivalità, quella tra le due nazioni, particolarmente sentita, che arriva sino ai giorni nostri attraverso il mito di due squadre che hanno sviluppato una grande tradizione sportiva adattandola al loro paese. C'è però una fondamentale differenza nella nazionale sudafricana che scopriremo tra breve. Quella che sentite è l'haka, la famosa danza maori che la squadra degli All Blacks esegue ogni volta che scende in campo per un incontro. Serve a caricare di energia agonistica i giocatori e viene eseguita da tutti gli atleti, siano essi bianchi, neri o naturalmente di origine maori. È la dimostrazione che lo sport, come tutte le espressioni della civiltà dell'uomo, deve essere aperto alle contaminazioni, arricchendosi così continuamente di elementi culturali tipici dei paesi nei quali viene praticato. Cosa significa l'haka per un maori, per un rugbista neozelandese? Ce lo dice un esperto di cultura maori, Inia Maxwell. Davanti a una sfida rappresenta lo stimolo del furore agonistico, per dimostrare l'unità e intimidire l'avversario, ma soprattutto per mostrare l'unità del gruppo, che si prepara alla battaglia e vuole tornare senza danni. Kamate, kamate, forse morirò, forse morirò. Kaora, kaora, forse vivrò, forse vivrò. La squadra degli All Blacks si presenta a ogni appuntamento unita, compatta. Sente di rappresentare tutto un popolo. Ha scelto una danza tradizionale che con la cultura anglosassone non ha nulla a che spartire. Ma quegli uomini provenienti da diversi paesi, grazie a quella danza, sono una cosa sola davanti all'avversario, pronti a vincere o perdere, ma insieme. Gli All Blacks con la haka celebrano l'unità. United, united, united we stand. United we never shall fall. United, united, united we stand. United we stand one and all. So give me love! La squadra del Sudafrica, invece, dal 1948 ha perso l'unità alla base dello sport del rugby. Ha perso il calore della sua gente. Uno sport simbolo dello spirito di squadra viene minato nelle fondamenta dall'apartheid, la segregazione razziale sudafricana. Gli Springboks diventano il simbolo di quella segregazione. Praticano uno sport riservato esclusivamente ai bianchi e odiato dai neri. Viene a mancare quella forza capace di riunire sotto una bandiera le diversità di cui si arricchisce un paese. Ecco la differenza tra la nazionale degli All Blacks neozelandesi e i rivali verde-oro sudafricani. Già dal 1910 gli Springboks si sono confrontati con tutte le principali rappresentative del mondo in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda. Gli incontri si sono susseguiti costanti, maturando per la nazionale sudafricana la fama di squadra di valore nel panorama internazionale. Ma da quando le leggi razziali hanno spaccato in due il paese, quella nazionale viene colpita, al pari di tutti gli sport, da un boicottaggio duro e senza deroghe. Gli Springboks sono fuori dalle principali competizioni sportive, sono fuori dal mondiale. È come essere in un limbo. La prima edizione del campionato del mondo di rugby si tiene in Nuova Zelanda nel 1987 ed è vinta, neanche a dirlo, dagli All Blacks. Nell'edizione successiva, quella del 1991, il titolo resta in Oceania, lo vince l'Australia. L'edizione del 1995 si svolge in Sudafrica. I tempi sono cambiati. Il Sudafrica ha abolito l'apartheid. È l'inizio del futuro di una nazione unita, un percorso che è cominciato solo pochi anni prima. Mr. Mandela, James Robbins, BBC News from London. Il signor Mandela? James Robbins, BBC News Londra. Può descriverci le sue emozioni quando è uscito ieri di prigione e le sue impressioni sul Sudafrica che ha visto? Devo confessare che sono incapace di descrivere le mie emozioni. Sono stato completamente travolto dall'entusiasmo, qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Nella strada sono stato colpito da quanti uomini e donne bianche sentono che un cambiamento è assolutamente necessario per il nostro paese. È il 1990. Nelson Mandela commenta così la sua liberazione. È l'inizio di una nuova era per la storia del Sudafrica, un'era di pace e di riconciliazione. Nell'arco di 4 anni, Mandela, quale leader dell'ANC, vincerà le elezioni e sarà il primo presidente nero della storia del Sudafrica. Lo aspetta un lavoro immane: ricostruire un paese, richiamare i capitali e gli investitori esteri, creare un clima sociale positivo e di collaborazione. Non sarà facile. No, se non verranno abbattute tutte le barriere culturali che separano i bianchi dai neri. Nelson Mandela ha trascorso 27 anni in carcere. Ha mille ragioni per essere animato da odio e spirito di vendetta nei confronti del governo segregazionista. Ma da presidente capisce che c'è una sola strada verso la creazione della Repubblica: la via della pace e della riconciliazione. Il suo vicepresidente, de Klerk, è bianco ed è l'uomo che lo ha liberato. Dove stavamo andando? Dovevamo cambiare direzione. Dovevamo abbandonare l'apartheid e abbracciare una nuova visione che portasse giustizia a tutti in Sudafrica, nel rispetto delle razze e del colore della pelle. In questo contesto, già nell'86, noi decidemmo. Non ci siamo svegliati all'improvviso con la considerazione che l'apartheid fosse un'idea sbagliata. È stato un lungo processo, iniziato già nell'86, abbracciando una nuova visione del nostro paese. De Klerk e Mandela riceveranno nel 1993 il premio Nobel per la pace. Ma i problemi della presidenza Mandela sono particolarmente scottanti. La maggioranza nera vuole marcare la propria supremazia con scelte che non vanno verso la riconciliazione. Quella squadra di rugby così forte, così riconosciuta nel mondo, è un simbolo da distruggere per i dirigenti neri dell'ANC, l'African National Congress. Mandela è di parere opposto. Ha capito negli anni che la riconciliazione passa attraverso il perdono. Ha capito che il presidente del Sudafrica deve esserlo per tutti i sudafricani, siano essi neri o bianchi. Quella squadra di rugby, gli Springboks, va difesa, va presa a modello. È un qualcosa di buono che può tornare ad essere un pezzo di Sudafrica positivo per la ricostruzione. I mondiali del 1995 si terranno in Sudafrica. Mandela capisce che tutto il mondo avrà lo sguardo puntato sul suo paese in quei giorni. La sua squadra deve mostrare l'unità di un popolo, non la sua divisione. I tempi sono cambiati. Il 1995 è l'anno del grande cambiamento. Nel mondo i segnali sono contrastanti. In quell'anno muore sotto i colpi di un fanatico il leader israeliano Yitzhak Rabin, colpevole di favorire il dialogo con i palestinesi. Bernard Harris Jr. è il primo afroamericano a camminare nello spazio. A Los Angeles, l'ex campione di football e attore O.J. Simpson, accusato di aver ucciso la moglie e l'amante di lei, viene assolto dal tribunale con una sentenza che fa scandalo. O.J. Simpson è nero, colpevole, ma ha un sacco di soldi. È il 50° anniversario della bomba atomica, mai più guerra, è il coro unanime, quanto vano. Il 22 novembre esce nelle sale Toy Story, primo lungometraggio animato completamente realizzato al computer, prodotto dalla Pixar di Steve Jobs. Seal è in vetta alle classifiche con Kiss from a Rose. My eyes become a lot and the light that you shine can't be seen. Nelson Mandela è stato eletto presidente della Repubblica Sudafricana. La sua decisione è quella di essere leader non solo dei suoi fratelli neri, ma anche della minoranza bianca. È l'unica strada verso la riconciliazione e un nuovo futuro in Sudafrica. L'odio non paga. È la vigilia dei campionati del mondo di rugby che si terranno proprio nel suo paese. Per il presidente è un'occasione da non mancare. Nella sua immaginazione tutta la società deve poter sostenere la nazionale degli Springboks, siano essi bianchi o neri, anche se fino a poco tempo prima quella nazionale era sinonimo di divisione razziale. L'intuizione di Nelson Madiba Mandela si trasforma in strategia. Infiammare il suo paese con la passione dello sport, dove lo spirito di squadra diventa la metafora perfetta del suo ruolo politico. Ricostruire, cioè, il senso di appartenenza di un'intera nazione. Da dove cominciare? Lui è un leader. Dovrà parlare al leader della squadra nazionale. È così che invita a Palazzo Presidenziale a bere un tè il capitano degli Springboks. è un giovane afrikaner di nome François Pienaar. François Pienaar. Pienaar sta incontrando la persona che illuminerà il suo cammino sportivo. Ogni volta che penso a Madiba Mandela, penso alla sua umiltà, penso alla sua confidenza con le persone. Lui è capace di farti sentire a tuo agio, di farti sentire importante, ti dà il suo tempo. Lui ha questa grande virtù. Lui è un grande, eppure nello stesso tempo è anche una persona così umile. François Pienaar nasce da una famiglia borghese, primo di quattro fratelli. Si fa notare sportivamente sin dai tempi del liceo. La sua capacità di guidare un gruppo si manifesta sin dagli inizi dell'attività agonistica con la squadra del Transvaal. Tanto che già alla prima convocazione con gli Springboks, François viene subito nominato capitano. La fascia non la lascerà se non all'abbandono dell'attività agonistica. Pienaar non si occupa di politica, anzi, a dire la verità, è avverso al nuovo corso che vede al potere i neri in Sudafrica. La sua famiglia vede quel cambiamento come la perdita di tutti i privilegi e della tranquillità della propria vita. Tuttavia va al colloquio curioso per l'interesse del presidente nero del suo paese nei confronti dello sport principe dei bianchi, il rugby. Pienaar, da buon rugbista, può comprendere un concetto che vive ogni giorno in allenamento, in partita. Solo insieme si può vincere. Saprà Nelson Madiba Mandela parlargli con queste parole? Lo scopriremo tra poco a Destini Incrociati. Tell me why, tell me why, tell me why. Why can't we live together? Destini incrociati. Nelson Madiba Mandela è il primo presidente nero della Repubblica Sudafricana. È il 1995 e siamo alla vigilia dei campionati del mondo di rugby che si terranno proprio nel paese più a sud del continente africano. Mandela ha capito che è l'occasione per aprire al mondo il suo paese e convogliare attorno allo sport tutta la nazione. Ma la squadra degli Springboks è odiata dai neri ed è stata sino ad allora il simbolo dell'apartheid nello sport. Mandela, con estremo coraggio, decide di invitare per un tè il capitano della squadra. Vuole parlargli, non di sport, ma di futuro. Adottò il motto «Una squadra, una nazione», perché aveva capito che questa competizione era per tutti i sudafricani e far bene in questo torneo avrebbe reso ogni sudafricano orgoglioso. Noi atleti sottovalutavamo quanto senso di orgoglio sarebbe scaturito per il Sudafrica. Pienaar è un buon giocatore, non molla mai. Ma la squadra è in un momento veramente delicato della sua storia. La lunga lontananza dai campi internazionali a causa del boicottaggio ha chiuso e isolato la squadra rispetto all'evoluzione delle tattiche e delle strategie. La compagine è quotata al nono posto rispetto alle altre partecipanti. Lontano da qualsiasi speranza di medaglia nel torneo mondiale, Mandela si informa. Comprende che sarebbe molto difficile persino un piazzamento. Bisogna agire assolutamente sul morale degli atleti, far sentire loro che la nazione è presente, è con loro e che è orgogliosa della propria squadra. Durante gli allenamenti ricevevo delle chiamate al cellulare. Era Madiba, che voleva sapere se tutto era a posto, come andavano gli allenamenti, se il morale dei ragazzi fosse alto. E questo per me era fantastico. Lui, il presidente, trovava il tempo di chiamarci e la presenza di spirito per dirci: ragazzi, noi siamo qui tutti dietro di voi. E questo per noi è significato molto. Un piccolo gesto che ha moltissima importanza. Mandela è impegnato in una serie di incontri internazionali volti a ripristinare i rapporti con gli altri paesi e veicolare investimenti e interesse sul Sudafrica che sta rinascendo. Ha già 75 anni, ma lavora senza sosta. È in questo contesto che bisogna comprendere quanto il suo impegno nel rugby sia stato ponderato e valutato come fondamentale. E intanto Pienaar sta cominciando a capire che il suo ruolo di giocatore e atleta sta assumendo dei significati più importanti e che quel presidente nero non è un nemico, ma una persona che ha accolto dentro di sé i significati più intimi e profondi dello sport che lui ha scelto, il rugby. Insieme è possibile raggiungere traguardi importanti. Da soli si è condannati alla sconfitta. Un paese può essere straordinariamente vitale se mette a disposizione di una sola causa tutte le proprie energie. La sua leadership in squadra si rafforza. Tutti adesso lo seguono e danno l'anima negli allenamenti. È la volta dei tour nei sobborghi di Durban e Johannesburg, dove la squadra degli Springboks passa intere giornate a giocare con i giovani bambini neri delle baraccopoli. È il grande sport che si avvicina ai giovani. Un'iniziativa voluta da Mandela. Nella squadra, composta per 14 quindicesimi di uomini bianchi, spicca Chester Williams, l'unico atleta nero del gruppo. Lui ricorda così il suo inserimento. Mi hanno fatto sentire così ben accetto. Questo clima ha fatto sì che io abbia dato alla squadra tutto me stesso. Continuavamo a ripeterci, siamo amici, siamo una famiglia. Ed è questo sentimento che ci ha uniti a tutti i sudafricani. L'arrivo di Chester Williams nella squadra sudafricana è un evento senza precedenti, il primo nero a rompere la supremazia dei bianchi. Per il capitano Pienaar, che è stato chiamato dal suo presidente a guidare la nazionale così come lui stesso sta guidando una nazione, è un momento importantissimo. Quando Chester è arrivato, ci ha raccontato cosa stesse accadendo in questo paese, cosa stesse accadendo nelle strade. Gli ho chiesto quindi di raccontare a tutta la squadra che grande opportunità avevamo. E così tutti ne ebbero coscienza. Eravamo già un paese solo. Thank you, Jesus. Feelings might go unexpressed. Think that's probably for the best. Dig too deep, who knows what you will find. Il campionato è alle porte e le squadre sono tutte forti. C'è l'Australia, già un osso duro per il Sudafrica nel primo turno. L'Inghilterra, nazione tra le favorite. La Francia, squadra tosta che ha battuto solo l'anno prima gli All Blacks. E poi proprio loro, i neozelandesi, gli All Blacks appunto. Il campionato parte con i padroni di casa che incontrano gli australiani. È un match delicato per Pienaar e compagni. Lo stesso Mandela, alla vigilia, va a trovare la squadra in elicottero per augurarle buona fortuna. Tutti sentono quel momento. Da una buona partenza può dipendere il successo. La partita è equilibrata. Gli Springboks riescono alla fine di un match tiratissimo ad avere la meglio. Punteggio finale 27-18. Il Sudafrica non è una cenerentola in questo campionato. Mandela può tirare un respiro di sollievo. Il seguito è una marcia trionfale verso la qualificazione alle semifinali. Il Sudafrica regola una dopo l'altra la Romania e il Canada. Il girone non perdona, ne passano solo due, ma è fatta. Gli Springboks si qualificano davanti agli australiani. Giugno 1995, la prima semifinale per Pienaar e compagni arriva contro la Francia. Piove a dirotto e il match è a rischio. A Durban non piove mai. Quella volta lo fa tanto da farsi ricordare per una vita. Ma in caso di annullamento, il match non verrà rigiocato. Passerà la squadra con il miglior punteggio sino a quel momento. In un clima di incertezza, gli arbitri dichiarano che il match può avere luogo. In un acquitrino, le due squadre iniziano la partita. I transalpini danno tutto. C'è addirittura una contestazione per una meta sulla riga di fondo che non viene data ai francesi. Il nazionale francese Abdel Benassi ricorda così quel match. Lo sport non è soltanto fatto di chi perde e chi vince. In quel caso il destino aveva deciso che il Sudafrica dovesse vincere quel match per una semplicissima ragione. Li avrebbe aiutati come nazione. Si era creata una connessione tra bianchi e neri con Nelson Mandela nel mezzo. Era qualcosa di straordinario. Finirà 19-15 per gli Springboks. È finale. E il Sudafrica è a un passo dalla gloria. La connessione tra Pienaar, il prescelto, e Nelson Mandela sta dando i suoi frutti. Sul piano sportivo, ma soprattutto nella storia di un popolo. Feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Destini incrociati. A destini incrociati è il 24 giugno del 1995. All'Ellis Park di Johannesburg si incontrano per la finale del campionato del mondo di rugby la squadra padrona di casa, il Sudafrica, e la Nuova Zelanda, Springboks contro All Blacks. Un incrocio storico che si perpetua da quasi un secolo in una rivalità che ha conosciuto un periodo di pausa a causa dell'allontanamento dalle scene sportive del Sudafrica per via delle sanzioni internazionali contro l'apartheid. Ma oggi si celebra un nuovo corso storico. Il presidente della nuova Repubblica Sudafricana si chiama Nelson Madiba Mandela. Sta ricostruendo la nazione a partire dallo sport, a partire dal rugby. Lo sport dei bianchi, i cui valori di solidarietà e unità sono perfetti per celebrare l'unità nazionale. Capitano della squadra, condottiero degli Springboks, è François Pienaar, un uomo che ha avuto il privilegio di incontrare Mandela rimanendone folgorato. Ma facciamo un passo indietro a ripercorrere il cammino degli All Blacks. Il cammino dei neozelandesi è stato duro, ma la squadra degli All Blacks ha una carta da giocare che le altre squadre non hanno. Signore e signori, vi presentiamo Jonah Lomu. Nel 1995 Lomu ha solo 20 anni, è alto 1,96 per 120 kg di peso, fa i 100 metri in 10,70, una furia umana. Ha creato un nuovo modo di fare rugby che prima di lui poteva considerarsi uno sport per uomini normali. Da Lomu in poi è diventato uno sport per Superman. Lomu dimostra tutta la sua dirompenza contro gli inglesi in semifinale. I blasonati britannici vengono annullati, spazzati letteralmente via dalla brutale potenza del giocatore neozelandese originario di Tonga. La Nuova Zelanda vince 45 a 29. Sembra che nulla possa arrestare la corsa al titolo degli All Blacks, ma non hanno ancora fatto i conti con un Sudafrica affamato di gloria. C'è il sole a Johannesburg il 24 giugno e le strade della città sono piene di gente col viso dipinto a colori verde, rosso e blu, i colori di una nazione. C'è gente bianca e nera, sono tutti emozionati, allegri, festanti. Una nazione ha scoperto la propria identità e annullato almeno per un giorno tutte le divisioni. Un ricordo che François Pienaar difficilmente potrà dimenticare. Il mattino della finale i ragazzi erano tutti nervosi. Ho cercato di calmarli, ma non c'era verso. Sembravano quasi ammalati, fisicamente. Dal pullman che ci portava allo stadio abbiamo visto tutta quella folla che ci accompagnava. Gente in auto, in motocicletta. Era fantastico. Sembrava fossimo delle star del cinema, roba da Hollywood. Madiba Nelson Mandela è riuscito nel suo intento. Trasformare uno sport tipicamente afrikaner nello sport nazionale del Sudafrica. Offrire ai bianchi e neri una passione comune per sentirsi un popolo solo. E nello stesso tempo, cogliendo un successo mediatico senza precedenti. Il Sudafrica è la nazione ospitante dei campionati mondiali. Davanti ai riflettori di tutto il mondo è arrivato il momento della finale. E a confrontarsi sono le due nazionali più forti del mondo, gli All Blacks della Nuova Zelanda e gli Springboks, squadra di casa. Tutto è pronto. Nello stadio Ellis Park ci sono 65.000 tifosi festanti. Il presidente Mandela arriva sul campo a salutare le squadre finaliste. Mandela, nello sconcerto generale, si presenta in campo vestendo la livrea verde-oro e il cappellino degli Springboks. Fa un po' specie vedere quest'uomo 75enne con la gioia di un bambino e il cuore grande di amore per il suo paese. Pienaar è il primo a stringergli la mano. Tutti sapevamo che sarebbe arrivato, ma mai avremmo creduto che indossasse la nostra divisa, maglietta e cappellino. Si è fermato davanti a me e mi ha detto semplicemente buona fortuna. Questo è tutto ciò che ha detto. A quel punto si è girato e ho visto che aveva il numero 6 sulla schiena. Il mio numero. Ero così orgoglioso. Non ci potevo credere. Mandela era il mio primo tifoso. Mandela non lascia nulla al caso. Le sue scelte sono studiate e meditate. Quella discesa in campo con i colori della nazionale può essere considerata uno sgarbo diplomatico nei confronti degli amici neozelandesi. Ma lui ha deciso di rischiare per giocarsi tutto sul fronte dell'entusiasmo interno del suo popolo. Anche Mandela ha deciso di vincere la sua partita. That's the great thing about sports. You play to win. And I don't care if you don't have any wins. You play to win the game. You don't play to just play it. You go play to win. And you start telling me it doesn't matter. Then you're tired. get out. We couldn't do diddly poo. Offensively, we couldn't make a push down. We couldn't run the ball. We didn't try to run the ball. We couldn't complete a pass. We sucked. We sucked. Bears are who we thought they were. Alla cerimonia d'inizio, un coro straordinario inneggia al presidente. È qualcosa di incomprensibile. Tutti, bianchi, neri, afrikaner e non, stanno inneggiando a quell'uomo esile e felice che ha già raggiunto il suo obiettivo. It is because I understood. È perché ho capito l'impatto dello sport. È uno sport molto importante. E perché lo sport parla una lingua che è compresa da chiunque nel mondo. Per queste ragioni ho supportato quel momento. Adesso il compito difficile è per Pienaar e il resto della squadra. C'è una Coppa del Mondo da portare a casa. Il match può iniziare. Gli Springboks si sono preparati bene per arginare la furia di John Alomu, con i denti e con le unghie, ma non passerà. Sono in molti a immaginare una gara molto tattica. E così sarà, nessuna meta, ma una serie di drop nella porta avversaria che porta il match al punteggio di 15 a 12. È finita. Il Sudafrica ha vinto. Ha coronato un sogno. Tra i pochi che in quel momento hanno colto la portata storica di quel traguardo, lo stesso François Pienaar, che trova parole da leader politico, intervistato dalla televisione a fine partita. Ci sono 65.000 sudafricani quest'oggi. Un supporto straordinario, eh? Non sono 65.000 sudafricani. Abbiamo 43 milioni di sudafricani con noi. Parole da consumato attore che sa di star vivendo un momento magico per sé e la storia del Sudafrica. Complimenti, grande kick-off, Mr. Mandela. Adesso, terzo tempo per tutti. The rising sun sets Mandela on his way. It's been 25 years around this very day. From the one outside to the ones inside, we say, oh, oh, oh, Mandela's free. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.